Sono messo bene qua. Mi piace. Da quando sono tornata adesso cosa è successo a Sacco? Niente, in 30 anni spari tutti i negozi. Cioè, 30 anni fa Sacco era vivibile come paese, piccolo paese. Nell'arco degli anni sono venuti a diminuire tutti i negozi, cioè non ci sono più, c'era il negozio della verdura, c'era la lavanderia. C'era, vabbè, il tabacchino che è rimasto, c'è ancora, e c'era il cestare che aveva tipo un negozio di un po' di tutto, ferramenta. C'era la cooperativa lì, Zecchinelli, che aveva tessuti, stoffe, c'è più niente, cioè, altro che bar, giustamente, non è altro che bar, cioè tutti i negozi, piccoli negozi, la zattera. Era e sono spariti tutti perché la gente va fuori a lavorare, per cui come borgo una volta magari si sentiva di più, adesso si sente meno, a parte appunto la mattina che ci si ritrova, però non c'è più la vita che c'era prima, magari quando si andava a fare la spesa trovavi la signora vicina e parlavi, cioè è andato un po' a morire come borgo. Perché ci siamo abituati a stare qua, cioè nel senso che comunque sia, vai anche da un'altra parte, quantomeno qua hai qualche persona che conosci. Vai a Rovereto, vai in un bar anonimo, qua almeno vieni la mattina, trovi qualcuno che conosci, bene o male, è il posto dove tu sei stata. Tra virgolette, io non sono di Rovereto, io mi sono trasferita a Rovereto 30 anni fa, per cui quelle poche conoscenze che ho di amicizie ce le ho tutte a Sacco, quindi è normale, è ovvio che vengo a Sacco e non vado a Rovereto a fare a colazione, cioè, e anche per la gente che ci vive, comunque è un posto di incontro tra persone che si conoscono, punto di riferimento. Dopo comunque durante il giorno ognuno ha le sue attività fuori da quello che è il borgo e ci si rincontra il giorno dopo.